Lo sguardo. Lo sguardo è un'azione intenzionale, non si tratta solo di avere gli occhi aperti. Per un carabiniere, lo sguardo deve essere pronto e profondo. Attento per cogliere rapidamente ciò che ha davanti e profondo per individuare ciò che potrebbe essere ingannevole o nascosto e che merita attenzione.